fare, che cazzo, è detto un uomo non altruista. No, non è detto un uomo non altruista. Anche la deviazione per questa, sta mostra, cazzo, dove portano alla fiera di Genova, dove ci sono gli effetti antichi, e cazzo, però è delucidato, non lo fai, no? Secondo che è Migola, te lo dici la prova per questo, qui. Yeah. il 48 di Nicola Pirata, cambio. Preferisco questo mio. Allora vedi, a volte andiamo, giriamo, rigiriamo e non so, io ho provato oggi, poi se tu mi stai dicendo così. Ma non mi piace la radio, capito? Cioè, no, poca radio, provo a mettere per le mie idee, ma se cambiamo le cose. Vedi un po' se queste. Adesso l'ho aperto il Mickey Gay, No, per me ne puoi fare un palco, glielo puoi anche restituire, per me, per conto mio. Hola. Ma è al contrario questo Mickey Gay, no, cavio. No, Gigi, ti dico, per me puoi sicuramente metterlo dentro la scatola per ridarglielo. E non lo mio, no, guarda, vado a provarlo. Mi è arrivato l'altro giorno, me l'ha dato a provare, io lo stavo provando qui. No, non piace a me, non mi piace. Non è a, non è a molti di picchi, non è come... Allora, 4. E beh, 12 watt. No, ma non è per i picchi oggi. No, non c'è radio, capito? C'è una modulazione molto bassa. Sto basso del radio, tu dici, boh, questo non te lo so dire. Non è se poi secondo me non è corposa come voce, capito? Ti dico che questo sembra che spiega di più di quello, sembra. No, le vatti sono questi, c'è a vedere. No, così sono. E aumentando le vatti come... Watt, non va di più, cambio. Io staccami lo 2001, voglio sentire il tuo rap, non lo fatti mettere chi se non mi piace, ci sto io via. Caffaro, già te lo togliamo. Uè. Cambio. anche con un altro aiuto, aspetta, eh. Devo mettere le stazionarie, se no mi fa casino tutto. Ma io muovo, vedi che qua fra un po' dobbiamo chiudere, Gio. Vedi qua sono come sta andando. Se è troppo aiuto mi sta andando, vedi un po'. 900 euro. Poi se te lo fa come te lo fa in maniera, boh, e cazzo ne so, un po' così anche Nicola Pirata, io ne ho sentito fatte da Nicola Pirata e vanno. Però ti ho detto, te lo mandano a te, cazzo, no, boh, non lo so io. Da piccolo, no, da 100 euro, quello nello solitario glieli fa lui, però sono sempre assieme loro, sono sempre due, se non glielo fa, quello glielo sbatte in testa. Capito? Per forza glielo fa bene, però non lo so, non lo so. Questo io l'ho ascoltato e non mi piace. Se passa quell'uomo che ritira il ferro vecchio, te la prende.